Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Vi proponiamo un radiodocumentario dedicato alla storia del Maggiolino, l'auto che ha segnato un'epoca. La versione integrale del documentario che state per ascoltare andrà in onda su History Channel giovedì 28 maggio alle 9.40. Le corse automobilistiche iniziano subito dopo l'invenzione dell'automobile. Dai primi anni del XX secolo, il suo fascino attrae piloti temerari e bravi progettisti. Nel 1910, la Austro Daimler trova un giovane che conosce entrambi i mondi, Ferdinand Porsche, che è sia un pilota che un designer. Porsche costruisce la sua prima macchina nel 1900, con motori a propulsione elettrica montati al centro di ogni ruota. Non è una macchina da corse, ma lo fa notare come ingegnere brillante e originale. L'impiego dell'elettricità non è molto sfruttato nell'evoluzione dell'automobile, ma le sue idee, come i motori elettrici montati al centro delle ruote, sono utilizzate poi nel trasporto di massa, nei tram e nei motori dei treni. Porsche è uno stacanovista. Le sue capacità ingegneristiche convivono con uno spirito indipendente, e a volte questo è una minaccia per la sua promettente carriera nell'industria delle ferrovie tedesche. Porsche non si trova in accordo con l'Austro Daimler e rassegna le sue dimissioni nel 1923. Lascia poi l'Austria per raggiungere la Daimler a Stoccarda, in Germania. Le sue idee non sono più stravaganti di quelle di tanti altri progettisti dell'epoca, ma riesce comunque a farsi molti nemici nell'industria automobilistica tedesca, molto conservatrice. Nel 1928 lascia la Daimler, ancora a causa di un disaccordo, e dopo il fallimento di una nuova attività imprenditoriale dovuta al crollo di Wall Street, forma una squadra indipendente di design in Germania. Nel 1933 Porsche progetta il modello 32 per la NSU, una casa produttrice tedesca di motociclette. Ne vengono costruite solo tre prima che il progetto venga accantonato. Ma il modello 32, con motore e trazione posteriore raffreddato ad aria e la sua caratteristica forma, sarà il punto di partenza per il design della Volkswagen, o auto del popolo. Quando Adolf Hitler sale al potere nel 1933, ordina la costruzione di un nuovo sistema di autostrade, le Autobahn. Vuole anche che si progetti una piccola auto da produrre su larga scala e con un prezzo economico per la classe operaia tedesca. Hitler convoca Porsche nell'autunno del 1933 e gli illustra i suoi parametri di progettazione per una vettura familiare raffreddata ad aria da produrre con meno di 1000 marche. Hitler sa esattamente cosa vuole. Negli incontri successivi traccia addirittura degli schizzi, suggerendo delle modifiche al modello 32. Dice: dovrebbe somigliare a un maggiolino. Devi solo osservare la natura per scoprire cos'è una linea aerodinamica. Porsche chiama il progetto modello 60 e firma un contratto per la sua produzione nel giugno del 1934. Nel febbraio del 35, Hitler annuncia con ottimismo che il prototipo sarà completato entro la metà dell'anno. Nel garage della casa di Ferdinand Porsche vengono costruiti due prototipi. Uno è una decappottabile, l'altro una berlina. Il problema più grande è creare un motore semplice, con raffreddamento ad aria, che sia anche economico. Tenta varie tipologie, compresa una versione a due cilindri, prima di soffermarsi sul progetto con quattro cilindri, quello che sarà il motore di più di 20 milioni di Volkswagen. Viene chiamato motore E. Le richieste di Hitler sono perentorie. L'automobile deve avere bassi consumi, viaggiare oltre i 100 km orari, consumando in media 7 litri per 100 km. Nel 1936, Porsche costruisce altri tre prototipi per dei test molto accurati effettuati dall'Associazione degli Industriali Tedeschi. Le macchine devono percorrere circa 29.000 km, attraversando la foresta nera, le Alpi e le nuove Autobahn. I test evidenziano alcuni punti deboli, ma i riscontri sono generalmente positivi. L'Associazione degli Industriali dubita che l'automobile possa essere prodotta al prezzo stabilito. Hitler avalla il progetto e commissiona alla Daimler-Benz la produzione di 30 vetture che saranno testate dalle SS. Il Führer subisce l'influenza di Henry Ford, che ha costruito i suoi stabilimenti nei pressi di canali, fiumi e mari. Posiziona quindi le sue industrie nella Germania del Nord, vicino ai principali canali e al fiume Reno. Nel maggio del 1938 si tiene, vicino a Fallersleben, una grande cerimonia nazista per la posa della prima pietra di uno stabilimento voluto da Hitler per competere con i giganti di Detroit. Durante la cerimonia, con lo stupore di Ferdinand Porsche, Hitler annuncia di voler chiamare l'automobile KDF Wagon. In tedesco KDF, KDF sta per forza attraverso la gioia. E inoltre la città che ospiterà il nuovo stabilimento si chiamerà KDF Stadt, la città delle auto della forza attraverso la gioia. Il compito di accompagnare Hitler durante la cerimonia è affidato a Ferry Porsche, il figlio di Ferdinand. L'automobile viene presentata a Hitler per il suo 50° compleanno. Il Führer non imparerà mai a guidare. Nel nuovo stabilimento si inizia subito a lavorare. Nella primavera del 1939 viene completata la prima fase. L'idea è quella di costruire 150.000 auto entro il 1940 e raggiungere nel 1943 il 1,5 milioni. La KDF diventerà così la più grande industria automobilistica d'Europa, facendo realizzare i sogni di Hitler e soprattutto quello di competere con i grandi giganti dell'automobile americano. Per vendere le auto viene studiato un sistema alquanto originale. Ai potenziali acquirenti viene fornito un libretto di risparmio. I pagamenti avvengono con l'acquisto di francobolli e il costo dell'assicurazione viene aggiunto al prezzo iniziale. L'unico colore disponibile per la macchina è il grigio azzurro. Alla fine del 1938 ne sono già state ordinate circa 170.000. Anche la consegna delle auto avviene in maniera inusuale. Prima dell'acquisto di tutti i francobolli, nessun acquirente può ritirare la sua vettura e lo deve fare comunque poi presso lo stabilimento. Non esistono agenti o mediatori. Se l'acquirente non può ritirare la propria auto, c'è una maggiorazione pari al 5% del prezzo totale. Ben presto si comincia a lavorare a due nuovi modelli, ma più che l'auto del popolo, questi sono mezzi che rientrano nei piani militari di Hitler. La Kubelwagen è in grado di trasportare 3 persone e una mitragliatrice. I rapporti del cambio vengono ridotti per poter procedere alla stessa andatura di un soldato con uno zaino sulle spalle. La robusta struttura del mezzo gli permette di affrontare qualsiasi tipo di percorso. Il secondo modello è decisamente più insolito, è la Schwimmwagen. La carrozzeria originale viene modificata e resa impermeabile. La trasmissione standard lascia spazio a un dispositivo di guida a 4 ruote motrici, così da avere sia le caratteristiche di un veicolo anfibio che di un fuoristrada. Quando Hitler invade la Polonia nel settembre del 39, le richieste per l'auto del popolo continuano ad aumentare. La KDF Wagen ha raggiunto i suoi standard di produzione. Gli interni sono essenziali e l'auto può ospitare 2 adulti e 3 bambini, in conformità con il decreto di Hitler, che prevede che figli e genitori debbano sempre stare insieme. La priorità del conflitto assorbe le risorse dell'industria che viene utilizzata per scopi bellici, come la costruzione di mezzi corazzati, aerei e missili. Lo stabilimento diventa quindi un obiettivo dei bombardamenti degli alleati, che durante una serie di raid nel 44 ne distruggono 3/4. In ciò che resta delle strade della Germania del dopoguerra, la grandiosa visione di Hitler per l'auto del popolo sembra appartenere a un'altra epoca. L'idea di una Volkswagen in ogni garage tedesco è la remota fantasia di un dittatore morto. Ma sta per accadere qualcosa di inaspettato. Le forze alleate hanno bisogno di veicoli affidabili per il trasporto delle persone. I loro mezzi sono insufficienti e i guasti sono all'ordine del giorno. Una parte della fabbrica è ancora in piedi. Al giovane maggiore inglese Ivan Hurst viene chiesto di valutarne l'efficienza. Era impossibile dare risposte. Bisognava solo andare a Wolfsburg e assumere la direzione dello stabilimento. Hurst viene incaricato di valutare l'entità dei danni e di decidere come procedere. Furono ritrovati la maggior parte degli strumenti. Erano stati spostati in alcune cantine per ripararli dai bombardamenti. Le grandi presse e gli attrezzi migliori erano ancora lì. Hurst trova la sua forza lavoro negli ex prigionieri tedeschi, detenuti nei campi di prigionia inglesi. La produzione del maggiolino andava avanti, ovviamente su scala ridotta, ma a quei tempi nessun altro industriale in Germania produceva automobili. Si cominciò nel 1946 al ritmo di 1000 automobili al mese, limite dettato dalla quantità di materiali disponibili. L'esercito inglese ne ordina 20.000 e alla fine del 1946 ne escono dalla fabbrica più di 7.500. L'auto del popolo voluta da Hitler percorre le autobahn, in linea con le sue richieste in merito alla velocità e al consumo di carburante, ma in circostanze molto diverse da quelle che lui aveva pianificato. Il 1947 fu un anno di importanti cambiamenti nel clima politico. Era calata la cortina di ferro ed era stato avviato un ponte aereo per Berlino. Mentre la Volkswagen e il resto d'Europa si trovano ad affrontare l'assedio sovietico di Berlino, il maggiore Hearst e il colonnello Radcliffe iniziano a guardarsi intorno alla ricerca di qualcuno che possa assumere il comando dell'industria in forte espansione. Inizialmente un'impresa difficile. Interpellammo sia la Federazione dell'Industria Automobilistica Tedesca che alcuni contatti personali, ma non trovammo nessuno che fosse all'altezza del compito. Alla fine, Heinz Nordhoff viene nominato direttore generale e nel 1949 la proprietà della Volkswagen viene restituita alla Germania. Nordhoff ha davanti una grande sfida. L'economia tedesca è in sfacelo, ma la Volkswagen ha tutte le carte in regola per essere uno dei punti di partenza per la ricostruzione. Nordhoff, che ha già lavorato per la Opel, possiede competenze ingegneristiche e nella fabbricazione di autocarri. Sceglie di produrre un solo modello. La Volkswagen fabbricherà solo il maggiolino e non ci saranno radicali cambiamenti nel suo aspetto. La produzione viene vorticosamente accelerata. Nel 1949 la Volkswagen è la principale industria della Repubblica Federale Tedesca. Questa imponente fabbrica, concepita da Adolf Hitler, distrutta dalle bombe e inizialmente ricostruita dall'esercito inglese, costituisce a 4 anni dalla fine del conflitto il 45% della produzione industriale complessiva nazionale. Le esportazioni sono essenziali, ma nonostante i grandi sforzi, gli americani sembrano essere poco interessati. Viene creata quindi una versione decappottabile. Max Hoffman, l'intermediario newyorkese che ha lanciato il mercato delle auto sportive della Porsche in America, accetta di essere il rappresentante della Volkswagen. Ma nel 1952 vengono vendute solo poche centinaia di esemplari. Nel 1953 Hoffman viene privato della concessione e Nordhoff inizia a pianificare la creazione della Volkswagen America. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario. Il piccolo e spartano maggiolino si sta ritagliando il suo spazio nel mercato automobilistico. La produzione viene accelerata e la macchina tedesca affolla le strade di tutta Europa. Nei primi anni 50, Heinz Nordhoff attua la sua politica di graduale miglioramento del prodotto. Sono passati quasi 20 anni dalla creazione del modello base da parte di Ferdinand Porsche. E il modello per il mercato è ancora relativamente nuovo. La macchina però va troppo piano, anche per quell'epoca. Il motore raggiunge quindi i 1131 centimetri cubici. La velocità massima però non supera ancora i 100 orari pretesi da Adolf Hitler. Nel 1953 il lunotto posteriore in 2 pezzi viene sostituito con un unico pezzo ovale e si introducono nuovi colori rispetto a quello unico dell'epoca hitleriana. Al design, però, non viene apportata nessun'altra modifica fino al 1958. Nonostante la modesta evoluzione degli anni 40 e 50, la Volkswagen provocherà nella società tedesca del dopoguerra trasformazioni che in pochi crederebbero possibili. Il primo cambiamento importante, nel 1945, riguarda il nome della città che ospita gli operai della Volkswagen. Kadefstadt, città delle auto della forza attraverso la gioia, viene sostituito dal consiglio comunale nominato dagli inglesi con il più idoneo Wolfsburg, come il vicino castello del XIV secolo. La città diventerà la residenza di una crescente popolazione di famiglie della Germania del dopoguerra, in cerca di pace e sicurezza economiche, dopo gli anni turbolenti del conflitto. Hitler aveva stabilito la sua Kfz-Stadt in un luogo dove era presente una grande varietà di forme di trasporto, e nei primi anni 50 questa si conferma un'idea vincente. Con la graduale espansione della Volkswagen, le risorse necessarie al trasporto dei materiali grezzi destinati alla produzione di decine di migliaia di maggiolini al mese assumono un ruolo sempre più rilevante. Hitler sognava di competere con le grandi fabbriche automobilistiche americane e ora Heinz Nordhoff si trova al comando di uno dei nuovi giganti industriali d'Europa. A metà degli anni 50 la fabbrica di Wolfsburg è, per l'epoca, altamente automatizzata, ma gran parte del lavoro è ancora portato avanti dagli uomini. E per mantenere gli standard e la velocità di produzione, questi operai devono essere altamente specializzati. A causa della scarsa potenza del piccolo motore Volkswagen, la scatola del cambio e la trasmissione giocano un ruolo fondamentale per l'efficienza della macchina. Il cambio a quattro marce del maggiolino si evolve fino a diventare un'eccellente unità, facile da gestire, veloce e altamente affidabile. La familiare sagoma del maggiolino nasce in pochi minuti. Viene imbullonato, saldato e avvitato da mani esperte. E mentre una squadra fa il proprio lavoro in un reparto, dozzine di altri operai fanno lo stesso in altre zone del vasto stabilimento. Contemporaneamente, altri operai, uomini e donne, montano fari, frecce, strumentazione e accessori e rifiniscono gli interni. A metà degli anni 50, la crescente domanda porta alla creazione di altri stabilimenti ad Hannover, Brunswick e Kassel. In meno di un decennio, un piccolo gruppo di lavoro, costituito da prigionieri di guerra tedeschi nel 1946, si evolve in un esercito di specialisti che contribuisce a un insperato successo. Gran parte del trionfo del maggiolino è riconducibile alla sua semplicità. È completamente privo di orpelli, è forte, resistente agli urti. Ha una struttura diversa da ogni auto del tempo, tranne che le Porsche sportive. Ma non è una macchina sportiva. È una semplice e funzionale rivoluzione dei trasporti. Alla fine del 1954 il numero degli esemplari di maggiolino prodotti nello stabilimento di Wolfsburg sfiora il milione. Non è certo il milione e mezzo preteso in tre anni da Hitler nel 1943, ma per una fabbrica distrutta dalla guerra è sicuramente un risultato eccellente. Le strade e le ferrovie che portano materiali grezzi allo stabilimento sono le stesse che conducono le auto da consegnare oltre i confini della Germania federale. Il maggiolino, economico e affidabile, soddisfa le richieste di migliaia di acquirenti in tutto il mondo. La Volkswagen è fondamentale per il miracolo economico tedesco del dopoguerra. Dal 1949 lo stabilimento di Wolfsburg crea posti di lavoro, salari e potenziale per le esportazioni. È la maggiore entità produttiva del paese e ne segna profondamente l'economia. La crescita di Wolfsburg favorisce l'espansione di nuove città in tutta la Germania. Viene costruita una nuova fabbrica ad Hannover per la produzione dei motori e molti altri impianti sono in progetto, mentre Wolfsburg si prepara a diventare lo stabilimento automobilistico più grande del mondo. È straordinario che quest'ondata di prosperità sia legata anche a una piccola auto progettata un quarto di secolo prima. Il messaggio del maggiolino raggiunge ogni parte del mondo e nel 1953 viene creata una filiale Volkswagen in Brasile. Anche l'Australia apre le sue porte al maggiolino. Nel 1957 la Volkswagen gareggia con successo contro vetture provenienti da tutto il mondo nel Rally Mobile, una gara estenuante in cui si percorre tutto il paese su alcuni dei terreni più accidentati al mondo. Negli anni 60 viene aperta la terza filiale estera, questa volta in Messico, e il maggiolino viene consacrato come automobile internazionale. Nel 1968 muore Heinz Nordhoff, l'artefice del successo della Volkswagen. Il suo successore è Kurt Lotz, al quale viene affidato l'arduo compito di trovare un erede per lo stagionato maggiolino. Il modello 4, che segue la 1500, non è la risposta. Non avrà mai il fascino del maggiolino. La Volkswagen possiede ora la maggioranza dell'Audi e della NSU. E con quest'ultima, nel 1970, lancia la K70. Ma anche questa è una delusione. Nel 1971, Rudolf Leiding subentra a Kurt Lotz. Si continua a lavorare sul Maggiolino e allo stesso tempo si cerca un'alternativa. Nel 1973, con la collaborazione dell'Audi, nasce la Volkswagen Passat. Nel 1974, anno del conflitto arabo-israeliano e del vertiginoso aumento del prezzo del petrolio, la Volkswagen subisce le prime perdite. La Passat non è la soluzione. Tutte le speranze vengono riposte in un design interamente rinnovato, senza alcuna preoccupazione del rispetto della tradizione Volkswagen. La nuova auto presentata in Europa è la Golf, una vettura a trazione e motore anteriori, ancora da perfezionare. Nell'ottobre del 1974 le vendite del Maggiolino sfiorano i 18 milioni e la rendono in assoluto la macchina più venduta nella storia. Prima del Maggiolino era stata il modello T della Ford. I dati riferiti al 1927 indicano poco più di 15 milioni di esemplari di modello T venduti. Nel 1972, con il sorpasso del Maggiolino, la Ford si rende conto che in realtà erano stati costruiti oltre 16 milioni e mezzo di esemplari del modello T. Ma alla fine del 74 non c'è dubbio, è il Maggiolino l'auto più popolare del secolo. La nuova gamma Golf include modelli a 3 e 5 porte, diverse cilindrate e un modello sportivo con una carrozzeria completamente differente, la Scirocco. La Golf è l'auto giusta al momento giusto. Il Maggiolino aveva impiegato più di 5 anni per raggiungere il milione di esemplari. La Golf impiega solamente 31 mesi. Sembra che la Volkswagen abbia trovato un valido successore per il Maggiolino. Negli anni 70 la produzione viene rallentata, finché il 19 gennaio 1978 l'ultimo Maggiolino prodotto in Germania lascia lo stabilimento di Emden. Per la Volkswagen è il campione del mondo, l'auto più venduta nella storia. Ma tutti i campioni alla fine devono ritirarsi. La corsa del Maggiolino è terminata. È il momento di passare al testimone. Lo raccoglierà la Golf. La Golf è decisamente una degna erede. Alla fine del 1979 il suo fatturato di vendita raggiunge i 3 milioni di marchi e 8 anni dopo il lancio i 5 milioni. Il successo della Golf non segna la fine del Maggiolino. La nuova vettura viene prodotta negli stabilimenti di Wolfsburg ed Emden, mentre negli Stati Uniti, dove viene introdotta con il nome di Rabbit, nasce nello stabilimento Volkswagen in Pennsylvania. Ma mentre le vendite della Golf aumentano in tutto il mondo, il Maggiolino continua a essere prodotto in Messico e in Brasile. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel giovedì 28 maggio alle 9.40. Un ringraziamento in redazione a Daniele Casagrande. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.